Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Eccoci, si sente, siamo arrivati. Eccoci, a proposito, Manfani, sezione Manfani. Presenti. Uno e due. E buonasera innanzitutto, buon sabato sera qui su Radio Wombat a Basement Records. A bestia. E di nuovo mi sono permessa di inserirmi così, non meno male, a gamba tesa nel Basement Record anche di questa settimana. Quindi ringrazio così male, l'ospite che mi ha dato fiducia ancora una volta. E ce la posso fare, ok. Ho portato altri contributi anche oggi dalla 33. Sì, chiaro, io sempre 33, solo 33. C'è stata questa modifica allo statuto, al formato di Basement Records. Mi dispiace, no, giustamente così. Io questi ciò poi non sono deve miei, evolvere la trasmissione, no? E mi sembra che sia evoluta in un modo giusto. Sì, spero. Io sono così, come a vedere dalle copertine dei dischi che hai portato, direi decisamente. Sì, beh, io sono una ragazza vecchia scuola in tutto e soprattutto attingo, come al solito, alla discografia Collezione Paterna, che come al solito bisogna... La verità è, si è dovuta fuggire, esatto, anche stavolta nella notte con i dischi sotto braccio, rischiando la malafarata. Sì, sì, sì, sì, perché mio babbo è libertario in tutto, anarchico, ti prendi tutto quello che vuoi, però se ti trovo con le mani sui dischi, però... ragazzi, comincia a essere un problema. Cioè la proprietà privata non esiste, però i dischi sono un'area grigia. Va bene tutto. E quindi babbo, scusa, perdonami anche questo giro, è andata così. L'ho presi e poi se li riporto. Lo giuro, te li riporto. E abbiamo una bella selecta questa girata, insomma, anche questa volta spero di aver scelto bene. Vediamo via via. E lei, signor Dama, cosa c'ha oggi in serbo? Ce lo dica. In serbo ho ancora un po' di 45 da far sentire dalla collezione di Stefanone. Di nuovo, collezioni qualche, private. Qualche rimasuglio dei sacchetti scoperti per puro caso, lasciateli abbandonati, sempre rigorosamente annata 69-70. 82, ecco, fondamentalmente. Qui Peretto, ragazzi, qui Peretola, fonte di, cioè questi dischi vengono tutti da Peretola. Davvero, non vorrei fare il campanilismo, però Peretola old school regna. Cioè, visto, qui... c'è l'aeroporto vicino, magari arrivava i dischi di sottobanco. Non lo so, però sti babbi peritolini, ragazzi, non credo. Ci stanno fornendo, insomma, bisogna dargliene atto. Quindi... Che facciamo? Ci facciamo bacchettare come sempre oppure ricordiamo anche i nostri canali? Ricordiamoli, li ricordi lei? Che io da qui, non leggo nemmeno il foglio. Li ricorderò io, perché sì, sennò la Bloody Mary poi ci bacchetta sulle ditine. No, infatti. Guarda Mary come siamo bravi, li diciamo subito, guarda, quindi allora, Social Wombat, è, ovviamente il sito è, no, non ti preoccupare, le so a memoria, è wombat.noblogs.org, bene, ovviamente bravo, il nostro amato sito, sì. Ricordiamo anche la nostra neonata frequenza AM, sì. Quando va, insomma, se sì, va, sì, va in modulazione di ampiezza, quando va a macchie di leopardo. Voglio ricordare a questo proposito che, ovviamente, essendo ogni singolo componente della trasmissione della M totalmente e completamente autocostruito, è normale che alle volte vada giù e ci sia da risistemare cose. Per cui abbiate pazienza, lavori in corso, pazienza, perenni. È come la rivoluzione permanente, esatto, no? E noi ci sta il lavoro in corso permanente, grazie anche a tutti quelli che si sbattono. Certo, ai tecnici, assolutamente. E quelli di qui, quelli venuti da fuori, poverini. È una scoperta giorno per giorno. Quindi... e ogni giorno ha un'evoluzione che non è sempre detto che possa essere positiva, però... Work in progress. È work in progress, assolutamente. Comunque seguite la frequenza 1359, spesso, sempre in macchina quando siete a giro, anzi, per la zona fiorentina. Diteci dove arriva, diteci fin dove si sente, così anche noi. E ricordiamo, capiamo, anche la mail, soprattutto, che è postawombat@insiberia.net, per chi vuole così farci complimenti in caso, io ci provo sempre, e si sa mai. E soprattutto proposte, critiche, perché no, anche no, io non le voglio, però sì, insomma, magari il Dama è più zen, lui le prende, più zen e più sadomasochista. Io le critiche ora poi non le voglio più sentire, non sono in grado, non lo voglio sapere se sbaglio qualcosa. Non me la fate svalvolare, no. Sbaglio poco, quindi di base, poi critiche e andiamo avanti. I canali social li diciamo? Sì, li dica lei, che io non ce li ho perché sono del 1880. Allora, il nostro canale Twitter, sempre aggiornato, specialmente adesso che è stata in corso fino a poco tempo fa, fino a qualche minuto fa, decina di minuti fa, il Festival della Letteratura Sociale alla Polveriera Spazio Comune. Sì, che si riproporrà anche domani, per cui diciamo la trasmissione di oggi finisce oggi, però domani ritorneranno con grandi premi e cotillon. Appunto, e tutti gli aggiornamenti minuto per minuto li troverete sulla pagina Twitter di Radio Wombat, che è twitter.com/radiowombatfi. Quindi seguite anche il Festival della Letteratura in Polveriera, assolutamente, perché invece è veramente interessante in questa edizione. Contributi multimediali, non proprio, ma non proprio istantanei, ma un pochino di tempo di latenza per elaborarli. Bella la latenza, mi piace. Li troverete sulla nostra pagina Facebook, se siete più mainstream, ed è facebook.com/radio-wombat-Firenze. Bene, cioè, abbiamo detto tutto. Vogliamo andare? Andiamo con un pezzone, un pezzaccio, come direbbe il nostro Guido della polveriera. Almeno, un pezzaccio e... almeno, beh, sì, qui... faremo riposare anche i timpani degli ascoltatori, sì, almeno. Sì, qui va bene. Qui devo dire che siamo andati sul classicone, perché io sono un po' così. Qui dai, niente, ora non ve lo introduco perché ve lo sentite, se ne parla dopo, ma non c'ha bisogno di troppe presentazioni. Posso dire solo una cosa prima di farlo partire? Va bene, la dica. Ti piace vincere facile? A me sì, sempre, sempre. Creedence Clearwater Revival. Dai. Bye. Bene. Mamma mia, che capolavoro. Allora, a parte pensavo fosse un'altra, la mamma ha fregato, ha messo questa. Però va bene, perché, vabbè, l'avete riconosciuta tutti. Chi non l'ha riconosciuta, mi dispiace. Siberia, subito. Siberia, fatevi una vita, perché non va bene. Siberia, subito. Chiaramente, questo, allora, questa traccia di cui parliamo viene dall'album Creedence Clearwater, dei Creedence Clearwater Revival, album Gold del ottobre del 72, edito per la Fantasy Record, e diciamo sarà seguito poi dall'album successivo More Creedence Gold del 73. Che dire, era il loro ottavo album, nonché la loro prima raccolta ufficiale, quindi è un album. Infatti c'è dentro tutti i loro grandi successi. Ci sono i grandi successi. C'è Proud Mary, c'è Down on the Corner, c'è appunto questa cover di Marvin Gaye, esatto, di I Heard It Through the Grapevine. Poi c'è Midnight Special, Susie Q, Born on the Bayou, Have You Ever Seen the Rain? Che era quella che volevo mettere io, no, ovviamente. Tutti proprio i più grandi successi, no, ma per puro spirito di contraddizione, ovvio, ovviamente. E meno male, non l'ho annunciata prima, e poi c'ha ragione, perché è veramente la più mainstream, la passano anche a Virgin Radio e non si può, però è la mia preferita, lo dico. Sì, anche questa, però è un po' più, c'è un po' più classica. Coverone di 11 minuti. Coverone di 11 minuti del vecchio Marvin, una versione molto bella, non troppo differente in realtà dall'originale, forse più bassi, cioè più portata sulla linea di basso. Sto dicendo una castroneria, no. Forse più portata, appunto, più base rispetto alla versione di Marvin Gaye, che comunque era un po' più, ovviamente, in stile Marvin Gaye, stile soul, quindi un po', certo, più solo, un po' più sincopata. Questa è una versione un po' più, come dire, non vorrei dire progressive perché non vorrei arrivare lì, però un po' più fluida, un po' più, no, da accompagnare. Direi blues rock. Esatto, va bene, grazie. Per cui questo era dei Creedence, non si può parlare perché se si apre il capitolo Creedence, ciaone. Addio. Però intanto vi siete presi questa che vanta innumerevoli cover, non solo i Creedence, l'hanno rifatta. Innumerevoli tentativi di imitazione. Esatto, l'hanno fatta in tutti gli stili, veramente, fino a quasi alla dub, veramente l'ho sentita in degli stili. Anche come si suol dire, l'ha rifatta anche in maiale. L'ha rifatta cane e porci, per cui va bene, questa era una bellissima versione dei Creedence, da questo album pazzesco che è, credo, imprescindibile nella storia del poi rock. È la greatest hits proprio, sì, dei Creedence, è proprio sicuramente, sì, una parte importante del, infatti, blues rock, molto, sicuramente. Molto bella. E con cosa procediamo, scusi? Ma guarda, così proprio per passare, come mi caratterizza, di farlo in frasca, a questo punto vi metterei Lou Rawls. Bene, ne parliamo dopo. Tanto si fa partire. Sparacela. Ovviamente mi stavo dimenticando di dire, certo, Basement Records, Radio Wombat. Ero preoccupata. Ancora non l'avevo detto. Yo, Lou Rawls. Lou Rawls. You see, Reverend, he had a son, you see, Alvin Jr. The boy was 19 years old, you see. And he thought, of course, that the boy was going to follow his footsteps, you know, because that's the way it's supposed to go. But the boy told him, Father, I can't do it, you understand, because I got a different soul, I got a different road to go. He said, listen, Father, understand me, I've got my calling on my own. Qui siamo andati proprio sui solettone, eh? Non sì. Nel senso il solettone delle scarpe grandi tipo 52, ma proprio un sol di grandi dimensioni. Avevo quasi capito. E quindi che ci dici di questo pezzaccio? Di questo pezzaccio vi dico che intanto Lou Rawls era stato una figura abbastanza, anche se magari di secondo piano rispetto alle grandi star del soul, comunque una figura sicuramente importante, perché era stato cantante, compositore, è stato anche apparso anche in diversi spettacoli in televisione in America. E proveniva dall'universo soul, infatti aveva iniziato con i Pilgrim Travelers all'inizio degli anni 50, fino a quando poi appunto insieme ai Pilgrim Travelers incontrò in tour Sam Cooke. Niente po' di meno che un'altra figura, cioè ancora sicuramente maggiore del soul. E proprio in quegli anni, mentre era in giro con il gruppo, ebbe un incidente gravissimo in auto e rimase in coma per 5 giorni e mezzo, e poi a un certo punto si risvegliò e ci mise ovviamente un bel po' di tempo per riprendersi, ma da quel momento la sua vita ovviamente cambiò radicalmente. E all'inizio degli anni 60 iniziò ad incidere dischi, però il successo gli è arrivato abbastanza tardi, dopo nel 66, quando aprì un po' di date dei Beatles nel loro tour del 66 in America. Allora lì ovviamente la sua popolarità crebbe e si conquistò la notorietà sul finire degli anni 60, quando raggiunse finalmente per la prima volta il numero uno in classifica in Billboard, con un pezzo puramente, quando tornò a fare puramente blues, con un album come Soulin'. E no, poi ha avuto sempre una carriera di buon livello, di degno rispetto, però insomma per molti ma non per tutti. Esatto, è arrivato anche, che in America è un grandissimo onore, a cantare l'inno diverse volte, se non sbaglio, al Super Bowl, non solo una volta. Quindi insomma, magari ecco, per il pubblico americano rispetto al pubblico europeo era più conosciuto. Magari è meno conosciuto qua, su questo versante dell'Atlantico, ma negli Stati Uniti sicuramente aveva raggiunto uno status di star. Anche perché se no aprire i Beatles, che comunque erano già abbastanza erano famosi in quel periodo, non era quindi per aprirli vuol dire abbastanza. Che insomma qualche aggancio ce l'avevi, insomma qualche gancino buono ce l'aveva, sì. Bene, grazie per queste info, sono sempre molto interessanti. E direi di procedere con un gruppo che abbiamo già sentito la settimana scorsa, i Macellai del Jazz, i vecchi The Jazz Butcher Conspiracy. Questo è un altro album, non è quello dell'altra volta. Questo è Distressed Gentle Folk, sempre una copertina strabella anche questo. più 1986, leggo sul centrino, esatto, del non ho scelto del una 33. Traccia in realtà, perché comunque a me loro mi piace quasi tutto, per cui non lo so, vogliamo scegliere una traccia dal lato A? Scegliamo, sì, un po' così. Io, a scatola chiusa, così per curiosità, ascolterei la Hungarian Love Song. Ah, lo sapevo, lo sapevo. Lo sai, perché io volevo sentire Falling in Love e tanto lo sapevo che lui voleva una cosa strana. Va bene, dai, ma come al solito, famo lo strano e manda quella. Tanto lo sapevo. Lo sai che rischi tantissimo a chiedere certe cose a me. No, infatti non ti devo mai lasciare libero. Mai. Se mi lasci da solo, finita. Poi lo sai che succede. Va bene, sentiamo quindi Hungarian Love Song. Dai. Dei The Jets Butchers Conspiracy. Basement Records. I'll be your breakfast, I'll be your dinner. You won't get hungry, you won't get thinner. Just see you starving, it's no damn good. So darling, darling, I'll be your food. Yucky bon butter and old jam tarts. Just see you do this, weighs heavy on my heart. All that you can break, same monopoly. And you can have all your meals for free, just call me. And you can start, cause there's no shortage in our hotel. We eat like porkers and drink like hell. So let's just sit in bed and talk, and you can bring a knife and fork and bite this and chew them well. Yeah, life is for living and love is for giving, and here is the scheme I propose. Groceries, dear, they're much closer than you might at first have supposed. I'll be your breakfast, I'll be your dinner. You won't go hungry, you won't get thinner. Just see you starving, it's no damn good. So darling, darling, I'll be your food. The least, this bloody nonsense between the West and East. Oh, but you should take it quite so hard. You got a butter mountain in your backyard. Just call me and we can feast. And if you need me, girl, I'm always there. Just take my bones out, remove the hair. And if you go out, I'll catch you later. I'll be waiting in your refrigerator, diced into neat little squares. Cause the best thing for you is a gigantic stew. It's the answer to all your despair. Oh girl, don't try to be tender. Just make with the blender. I want you to know that I care. I'll be your breakfast, I'll be your dinner. You won't get hungry, you won't get thinner. Just see you starving, it's no damn good. So darling, darling, I'll be your breakfast, I'll be your dinner. You won't get hungry, you won't get thin now. Don't take offense now, don't make me rude. But if you need me, I'll be your comfort. E questa era Hungarian bene. Love Song. E allora abbiamo sentito, era bellina, va bene. Però di sicuro quella che volevo io era meglio. Comunque non è vero. È vero, è vero. Distressed Gentle Folk, questo album dei The Jets Butcher, che ha già nella, insomma, già dalla copertina, già dalla grafica si scosta, si discosta da quello dell'altra volta, era molto fumettoso, molto, no? Fatto con i fumetti, molto pop. Questo qui c'ha una copertina un po' finta retro, molto bella. Poi la vedete nella foto di sigla della trasmissione. Gli si fa, gli non si mette, vedano. lo so, allora non la vedono, ma poi la vedono nella foto. E i vecchi cari Jazz Patcher Conspiracy, che col jazz ovviamente non hanno nulla a che fare, già dal titolo, perché appunto, no, i macellai del jazz, quindi gente che il jazz l'ha preso e ci ha fatto proprio altro. Con questo spirito l'ha fatta a pezzi, con questo spirito un po' di contraddizione, un po' appunto di ironico sempre. Quindi insomma a noi ci piacciono, a me comunque piacciono, anche a me, piacciono molto, anche a lui. E diverse tracce interessanti in questo album, appunto questa già nominata Falling in Love, Big Bad Things, Still in the Kitchen e questa che abbiamo sentito. Però ecco, è un album sempre sul genere loro, non cambia troppo, più o meno il genere loro è rimasto un po' quello. La data di uscita, come dicevamo, è l'86 per la Big Time Records. E non so in che momento, cioè, loro hanno avuto, come vi avevo detto l'altra volta, la formazione è cambiata sempre molto, cioè il leader è rimasto lo stesso, però è cambiato molto sempre i componenti, per cui non so in questo momento a che punto fossero della loro metamorfosi di come appunto da che punto della loro storia fossero, perché non sono così esperta su di loro. Però come vi raccontavo, è una band che ha cambiato spesso componenti. Furono fondati a Oxford nell'82 da Pat Fish e Max Elder, che erano appunto compagni di università, e di fatto però è sempre stato considerato un progetto fondamentalmente appartenente al leader, appunto a Pat Fish, e gli altri poi sono cambiati un po' nel tempo. Quindi ecco, nati nell'82, chiaramente influenzati dal sound dell'epoca, no? In certi momenti ricordano anche un po' alcune cose, se vuoi, dei Cure, degli Smiths, sì. Magari non hanno la parte elettronica, non hanno la parte sintetica. Comunque in tutti gli sensi. Anni 80 si sentono, però insomma. Si sente, è chiaro, no? Non è, cioè, è un folk però sì, più aggiornato, un po' sciacquato un po' dal blues, sciacquato dalla roba più vecchia, però insomma, ecco, un po' gli Smiths ricordano sicuramente, sì. Quindi ecco, questi Jazz Patcher Conspiracy hanno avuto in realtà una vita lunga, una carriera abbastanza, sempre un po' di nicchia, però conosciuta, insomma una carriera abbastanza riconosciuta, e tuttora, si diceva anche a microfoni spenti, in realtà incarnano un genere che bene o male è fondamentalmente sta andando, perché anche i gruppi di ora, i gruppi non di giovani. Non sembra per niente che abbia 30 anni. No, non sono invecchiati, anni, vero? L'anno, ora non vorrei dire. Anzi, più di 30 anni. Sarà l'annata buona, non perché è la mia, però vorrei dire che, secondo me... Ma sei piccina. Grazie, meno male. Pischella. Che bello, perché di solito sono la più vecchia, e quindi questa volta invece qui non sono la più vecchia, e comunque ho l'età dei Jazz Patcher Conspiracy. Sì, e me li porto forse bene come loro, chissà, speriamo. Ah, sì. Ah, anche meglio. Grazie. Su questo direi di procedere con un pezzaccio che c'hai te, che mi devi dire te. Un pezzaccio, ora te lo metto questo pezzaccio e per saltare sempre di farlo in frasca. Come al solito. Non potevo che scegliere la Cher, che ti volevo mettere l'altra volta. Ero riuscita a evitarla l'altra volta, Cher, e oggi no, oggi mi tocca. Non mi ha sempre Natale. Non è mai Natale, quasi mai per me. Comunque, ora ti tocca. Mi tocca Cher, ma va bene. Però, guarda, te lo dirò dopo, vai. Potrebbe essere meno peggio di quanto pensi. Va bene. Sonny Bono. E c'è. Ah, quindi ai tempi di Sonny ancora, vabbè, allora ce la possiamo fare. Non mi voglio così male. No, è vero. Basement. You never give yourself completely. It's just that you've been hurt before. You're so afraid to let me love you. You never leave an open door. some other lover who broke your heart and walked away. Come, let's be fair with one another. My world is yours, I swear it. I say the word and we can share it. Don't hide your love. Don't hide your love. Not if you care for me. Not if you care for me. It isn't fair for me to worry and wonder and wait. Don't hide your love. Don't hide your love. Just love me here and now. Love me here and now. Work it out somehow. Don't you keep us apart. Baby, unlock your heart. Don't hide your love. Well, I know the past has brought you sorrow. The clouds still hang around today. But don't let the rain fall on tomorrow. Baby, we can make it together. 'Cause I'm gonna love you forever. Don't hide your love. Don't hide your love. Not if you care for me. Not if you care for me. It's unfair for me to worry and wonder and wait. Don't hide your love. Don't hide your love. Just love me here and now. Just love me here and now. Work it out somehow. Don't you keep us apart. Baby, unlock your heart. Don't hide your love. Don't hide your love. Don't hide your love. Not if you care for me. Not if you care for me. It is unfair for me to worry and wonder and wait. E questa era era la nostra Cher, che finalmente sono riuscita a farti sentire dai dai dopo dai e dai, ma dopo un paio di settimane pensavo peggio. Sì, dai, questa... era un buon periodo, era buono ancora. Sì, ancora sì, questo è 72 e ancora buono, si sapeva. Credo che fosse già separata, sì, forse sì, da... però ancora era ancora sotto la sua ala protettiva, fortunatamente. Sì, a infatti, livello artistico c'è da dire che ricordo che Sonny Bono è stato un grandissimo del rhythm and blues. Ha continuato poi la storia, sì, cioè, oltre tantissimo, dopo... certo. Ha una storia buffissima, tra l'altro lui, leggevo una storia personale, già da fatte tipo di mille colori, mille vicende. Sicuramente. Come lei è in un altro soggetto. Modo, però lui è rimasto più... Ecco, ora no, effettivamente lui è rimasto... Cioè, la qualità della roba, sinceramente, ovviamente. Diciamo che è rimasto più fedele alla linea. Alla linea, ecco. Lei proprio la un po' perché per le donne è più di c'è, il mondo musicale è molto più difficile, certo. Quindi lei ha dovuto poi sfruttare, purtroppo il sessismo funziona così, ora non per fare la solita polemica, però è chiaro che per una donna, soprattutto in quegli anni, cioè lei ha dovuto poi puntare su altro fondamentalmente, certo, e poi vabbè. Ha puntato al successo anche, pop. Sì, e anche sul fisico fondamentalmente. Sì, famoso, che è di plastica già dall'80, che però lei l'ha sempre ammesso. Era già di plastica nell'80. È già i primi. Lei è stata una proprio delle prime. Tra l'altro lei è stata anche un'attrice, ha fatto la carriera. Sì, sì, no, tutti sappiamo. A parte quel film schifoso che ricordavamo un po' di tempo fa, quello che doveva essere il film biografico su Billie Holiday. Ah sì? Cioè... Lady Sing the Blues. Ah, è vero. E c'è coinvolta lei? E no, non lei è, lo... lei è Billie lei Holiday. Richard Pryor faceva Mal Waldron. No, scusa, l'avevo rimosso. Ma ci credo, l'avevi rimosso. L'avevo rimosso dalla memoria cinematografica. Uno dei film... più tremendi, più vergognosi che abbia mai visto. No, meno male l'ho rimosso. E non tra l'altro... per niente. Cioè... pensando di star guardando il biopic di Billie Holiday, l'avevo trovato solo in lingua originale senza sottotitoli, però ho detto vabbè, ce la posso fare. Me lo voglio sentire. E cioè parla così male che non si capisce. No, quello si capisce bene. C'è un problema, è che questa cosa me la ricordo quando guardavo il film, è che aspettavo sempre che arrivasse da qualche parte questo film e dicesse un po' effettivamente della vita di, che la vita di Billy è stato un Mamma film mia. No? E invece sì. parla solo ed esclusivamente delle sue disgrazie coniugali nel cioè, rapporto con lui, della droga, eccetera, eccetera. Un film agghiacciante. Ma no. Ma guarda, comunque i biopic musicali, ne ho visti diversi negli ultimi... Ora, questo non è degli ultimi anni, però anche questi hanno fatto negli ultimi anni, sono tremendi. Cioè, non so come mai, con i biopic musicali, peggio che quelli su altri personaggi sì, storici. Era uno... Non so come mai sui biopic musicali... anni 70, sia sì. Lady Sing the Blues, 73, Ma in generale 74. I biopic musicali, sia vecchi che anche quelli che fanno ora, sono inguardabili. Cioè non so come mai sul biopic musicale veramente non ci si... O non ci si impegnano, non fanno la ricerca di o ci mettono registi... tremendi. Comunque gli ultimi, ho visto uno su Jimi Hendrix, imbarazzante, quella su Nina Simone che hanno fatto anni fa, non si poteva vedere. Quale What Happened to Miss Simone? Quello era bellissimo. Quello sì, ma quello prima, che ne hanno fatto un altro prima, che era anche quello mezzo documentario, mezzo fiction, c'era anche su Sky, su Netflix, non si poteva vedere. In genere quello su Hendrix, una roba, non si poteva, Andre 3000 degli Outcast che fa Hendrix, e poveretto, ci si mette anche d'impegno, ma non si può vedere. Non si può vedere, non si può, cioè lo riducono a un poraccio che boh faceva le cose a caso con le tipe che gli facevano fare quello che voleva, cioè una roba che non si può vedere veramente, cioè non so come mai, scusate l'angolo della polemica, però i biopic musicali organizzato del regista, sì sì, da andare a cercarla a casa, cioè ma perché non lo fare, cioè, di raccontare la storia di uno è stato, ah quelli un'altra è Janis Joplin, hanno provato a farne mille sì. versioni e fanno tutti orrore veramente. Io l'ultima non l'ho vista, ma ne ho visti due o tre prima, uguale un altro su non mi ricordo, cioè comunque ecco i biopic musicali non si sa come mai vengono male, cioè c'è qualche regista che riesce a raccontare le storie dei gruppi, ma perché magari sono anche un po' qualcuno ce la fa, anche se anche lì hanno toppato, perché anche Oliver Stone con Doors, aiutami, eppure era Oliver Stone, eppure voglio dire, il King di base. Con Val Kilmer a fare... Il vecchio Val, che ci stava bene in realtà, Val Kilmer non era fuori parte, però il film andava veramente da poche parti, e comunque era roba di qualità, roba di Oliver Stone. Insomma, che l'aveva diretto Pimpirinella proprio. Sì, però è uno dei peggiori film di Oliver Stone in generale. Quindi in generale non si sa come mai... Forse perché la musica è particolarmente difficile da restituire, forse perché la storia degli artisti è... Non lo so, per esempio Gus Van Sant su Dancer in the Dark. Beh no, quello vabbè, però pensavo a quello su... oggi sono sui leader di Nirvana, è molto bello perché non è proprio direttamente, cioè la storia si capisce che è Kurt Cobain, però non è mai detto che è Kurt Cobain, insomma si chiama The Last Days, gli ultimi giorni, ma allora se l'è giocata, però anche bene, lì Van Sant fa una cosa un po' diversa, cioè. Perché è Van Sant, perché Van Sant Van Sant con le biografie ce la fa, infatti anche quella di Milk è molto bella, però in generale quella su Milk è molto bella, in generale è difficile, cioè, che i biopic sui musicisti vengano bene, un po' perché li fanno così un po' alla cazzo, o forse perché è particolarmente difficile restituire le vite probabilmente che sono personaggi complessi, sicuramente più belli sono i documentari, più belli ancora sono i film che si ispirano magari alle storie delle band, ma non sono magari direttamente la storia, sono un po' romanzati. Non so, penso a Almost Famous di Cameron Crowe, che non è male, che rende Cadillac Records. Ce n'è tanti di film che si ispirano quelli sono meglio, perché forse si ispirano a un momento, magari a una band un po' inventata che si rifà magari a una band vera, e non sono, e quelli vengono meglio. Però in generale, scusate, va bene, questo era l'angolo della polemica. Comunque, abbiamo distrutto roba tipo 30 anni di cinema di biopic. Così, ragazzi, gioco è duro. e l'abbiamo abbattuto così a picconate. E è così che si deve giocare. Per andare avanti, per abbattere a picconate un po' tutto, direi, sempre con uno spirito critico, abbiamo Volunteers. Cioè, capito? Io quando mi ha portato, è entrata qui in regia con questo disco, io non ho potuto fare altro che inginocchiarmi di fronte a questa reliquia che ha segnato tra l'altro la mia infanzia. Vedi? L'avrò ascoltato 750 miliardi di volte questo disco. che nell'edizione vinile poi è bellissimo, è perché c'è proprio, si apre in due, c'è, e c'è questo sandwich nel mezzo con a sinistra il burro d'arachidi e a destra la marmellata. E dietro c'è il cruciverba, tutti le foto, un vinile bellissimo con la bandiera americana. Vabbè, lo vedrete nella foto della puntata, pura storia. Ma vabbè, il vinile di Volunteers di dei Jefferson Airplane, forse l'album dei Jefferson più conosciuto e più famoso in assoluto. E facciamo sentire subito un pezzo di questo capolavoro storia della musica, che non ha bisogno di troppa introduzione. Ho scelto per voi Hey Frederick, ovviamente Basement Records, Radio Wombat. Stripping the willow. pezzo. Vabbè, che gli vuoi dire? No, nulla, qui storia della musica proprio, Cioè, questo non si può dire altro. Sì, io direi... Una pietra sì, miliare della storia della musica degli anni 60, disco del 69. Tra l'altro, se vi piacciono i Jefferson Airplane, c'è un'intera puntata di Tonight Alive. Ecco, autopromotion, sentilo come si promuove. Bene, è vero, è bellissima, è veramente bella. Sì, dovete andarla a ricercare nel podcast, ma la trovate. Sì, c'è. E tra l'altro è anche stata risistemata la questione dei podcast. Ora è molto più fruibile, sì, è vero, non c'è più la finestrella lunga. Ma che bravi tutti quelli che hanno sistemato il sito del WOMAD, complimenti. I nostri tecnici ci ascoltano sempre. E anche chi si accolla a tutte queste robe tecniche e poi rimane sempre nell'ombra e non è giusto, perché invece quello è il lavoro più palloso, è il lavoro però che fa andare avanti tutto, perché chiaramente la radio va in streaming principalmente, certo. Quindi se non si trova... E tanto vale ricordare anche la formazione di questo album storico dei Jefferson, sì. Airplane, la grandissima Grace Lick alla voce, l'avrete riconosciuta, una delle voci più belle della storia del rock secondo me. Bello. Paul Kantner, l'altro cantante, Marty Balin, il terzo cantante, perché i Jefferson Airplane avevano tre cantanti. Jorma Kaukonen ovviamente alla chitarra, che poi formerà insieme a Jack Cassidy al basso i mitici Hot Tuna, e Spencer Dryden alla batteria, grandissimo batterista. E, che altro dire di un album? Se non lo conoscete, recuperatelo in streaming o in qualunque forma moderna vogliate e scopritelo, perché è veramente... far sentire un pezzo e basta di quest'album è... Cioè, ridurre un grande edificio, una grande opera monumentale a un solo mattone, lo dovreste ascoltare tutto. E sono sicuro che non ne rimarrete delusi sicuramente di questo pezzo della storia della musica rock e pietra miliare del suono della baia californiana e di tutto il movimento psichedelico e della controcultura della fine degli anni 60. Erano proprio sicuramente non i più impegnati politicamente, i Jefferson Airplane, all'interno della scena della baia, ma sicuramente finché... Versante più fricchettone, diciamo. Sì, ma finché il sogno della rivoluzione del... Vabbè, che comunque aveva una sua componente politica. Sì. Ora noi si dice fricchettone per dire una cosa leggera, ma in realtà contestualizzare. Non lo era per all'epoca niente. Essere così era comunque uno statement, cioè, si dice, certo. Era comunque una presa di posizione. Poi quando... Chiaro che poi viene sciacquata dal tempo, no? E chiaro. Diventa estetica. Però finché non diventa solo estetica e finché era davvero una presa di posizione... Era una posizione politica, perché insomma andarsene in giro vestiti in un certo modo e professando pace e amore inizialmente in un'America come quella che era negli anni, insomma, ti faceva rischiare, per niente scontato. Poi ovviamente... Poi è chiaro che le cose... No, Jefferson, come la stragrande maggior parte dei musicisti della baia, sono rimasti ovviamente traumatizzati come tutto dalla fine del sogno della Summer of Love. Chiaro. E c'è chi si è evoluto in altro e c'è chi è rimasto lì. Questo infatti era questo Volunteers del 69 è un po' il disco della presa di posizione della fine del sogno, dell'estate dell'amore, dove si rendono conto che professare appunto pace e amore non è più bastato. Tanto il caso, ma iniziava una nuova stagione di lotta con un più intenso impegno politico, e il pace e amore se n'era andato a farsi benedire, insomma, insieme ai sogni della baia. Il sogno era finito e si doveva trasformare in qualcos'altro. Che poi ci sia riuscito o no, questo, questo apre un grande dibattito a cui magari poi svilupperemo. Però per ora passeremo invece a tutt'altro, in realtà, sì, poi nemmeno troppo, però insomma sì, con un disco molto bello di Adrian Belew. Mamma mia. Sì, anche qui poi presentiamo dopo, intanto mandiamo. Il disco è Mr. Musichead, quindi uno dei suoi dischi più noti, fondamentalmente, dei suoi lavori più noti, dell'aprile dell'89, quindi facciamo veramente un salto un po' in avanti. Ed è il suo primo rispetto disco. Rispetto alla nostra media recente. Sì, siamo andati avanti. Ed è il suo primo disco per Atlantic Record, quindi il primo che lui produce con Atlantic Record. Contiene in sé il suo primo solo hit single, diciamo il suo primo single estratto e che diventa un po' una hit, che è Oh Daddy, che io voglio sentire questo. Stavolta decido io, perché appunto, siccome il disco è del babbo, Oh Daddy direi, è giusto che venga dedicato a lui. Sì, e quindi ce lo sentiamo con Oh Daddy, Adrian Belew, Basement Records, Radio Wombat. Questa dedicata Bellino al babbo, Oh Daddy, di Adrian Belew, con i bimbi che cantano il coro, molto bellina. Oh, Daddy. Si diceva appunto Adrian Belew, vabbè, una super figura della storia della musica strumentista con i controcazzi, scrittore, scusate il francesismo, songwriter, quindi scrittore, produttore e polistrumentista. In realtà non suonava solo la chitarra, però sapeva suonare anche altri, sa suonare anche altri strumenti. Poverino, è ancora sì, vivo. Penso, sappia, qualunque cosa sì, gli sì, dai in mano. Però fondamentalmente è stato un chitarrista e conosciuto soprattutto per questo approccio molto. Anche se nel retro della copertina guarda suona il pianoforte. Sì, suona anche il pianoforte. Sì, sì, non è un chitarrista. Comunque è noto come il chitarrista, ovviamente. Certo. E per questo suono molto caratteristico. Insomma, sì, è stato definito un po'. Questo approccio alla chitarra molto, molto impressionista, non so cosa i critici vogliano dire con impressionista, però probabilmente la capacità di rendere no, certe sensazioni, certe immagini con il suono e più che stare diciamo negli standard della musica tonale classica, più che essere un chitarrista da riff da esibizione virtuosa, è sempre stato un chitarrista molto impressionista, appunto, no? Molto, molto legato a questo suono che rimanda, magari con poche note riesce a descrivere molto, quindi più che puntare su una tecnica che aveva ovviamente su una bravura, probabilmente un po' come era nel periodo in cui insomma è diventato anche noto. No, cercava di era più l'atmosfera, cercava di rendere più probabilmente tra l'altro tra le varie collaborazioni devo ricordare tutte quelle mezze calzette che hanno usufruito dei servigi della chitarra di Adrian Belew, tra cui sì no tutte mezze calzette, tutta gentaccia, allora tipo alcuni li abbiamo già sentiti, King Crimson Frank Zappa, David Byrne, Lori Anderson, sì, insomma tutte queste mezze calzette, i Beards, i Nine Inch Nails, per parlare di roba più anni 90, no, qualunque insomma gente ha affrontato così. Qualunque genere musicale, gentaccia. Tra l'altro sono anche andata a sentirlo in super gruppo un mesetto fa qui a Firenze, che c'erano a suonare. Il prezzo del biglietto non era proprio popolare, diciamo. Io non me lo sono potuto permettere, infatti l'ho mandato lui e io non ci sono andata alla fine. Era, però secondo me valeva la pena, in dai. Una super formazione con Stewart Copeland, era insieme c'era Billy appunto, e poi c'era il bassista degli UB40 che mi sembra King. E insomma avete già capito, era in mezzo assieme a tutte queste mezze calzette sotto la ragione sociale di Gizmodrome, e sicuramente è stato un bellissimo concerto. Andava sì. E adesso che mettiamo? Che ci abbiamo? Mi sono persa un po' il filo. Ah, allora io avevamo scoperto sì, c'era avanzato qualcosa dall'altra volta, sì. Vero? Cosa c'hai lì? Sì, guarda, metterei questi misconosciuti qua. Va bene. Che poi andremo a presentare d'accordo. Dopo. Se recupero il nostro centrino di cartone. E questo è il nostro ultimo pezzo o il nostro penultimo pezzo? Ma io voterei penultimo, dai, non diciamo mai l'ultimo. D'accordo, questo è il nostro penultimo. Questo è il nostro penultimo pezzo della serata di stasera, di questo sabato sera insieme a Radio Wombat. Ci siamo dimenticati di dire anche che stasera c'era la festa a Mondeggi, tra l'altro. Sì, è solo perché vogliamo che state a ascoltare Basement Records, non che vi andate a sbronzare a giro. Però alla fine... fanno in tempo, appena fanno si finisce. Fanno in tempo, va bene. Almeno vero. Ci raggiungano, sì, si fa anche noi. Io vo di sicuro. Va bene, io vediamo se ti seguo, perché insomma sono una ragazza un po' più a modino e quando finisco Basement Records devo rimettere a posto tutti i dischini, quindi non lo so se posso prendere così. Dai, però ci vado tutta la notte. Oh. Ma te senti, c'è il fisico. Quindi andiamo col prossimo pezzo. Sì, che visto insomma dopo un pezzo da 90 come Andrew Belew, non potevo che mettere un disco dei misconosciuti Sailcat. E vabbè, dai. E andiamoceli direttamente a sentire da questo 1972 editi su Elektra Records, quindi su una major. E andiamoci a sentire i Sailcat con Rainbow Road. Attempt to ride this motorcycle, gray solid brick car. do is wrong. Well, I get so tired. Yes, I get so tired. Sometimes I get so tired. Sick of trying. Questi direttamente dall'Alabama degli anni 70 erano i Sail Cats con Rainbow Road su Elektra Records, gruppo veramente tipicamente, con un suono tipicamente Southern Rock, specialmente in questa Rainbow Road, perché Rainbow Road era in realtà il lato B del singolo, che il lato A era Motorcycle Mama, ma è veramente un pezzo super pop. Invece qui in questa Rainbow Road si sentono proprio tanto le loro influenze Southern Rock, blues, tipo Lynyrd Skynyrd, sì, molto ZZ meglio Top, però se posso. No. Io non sono un amante della Lynyrd Skynyrd, vabbè. Erano un po' reazionari, come, sì, in generale, come i sudisti in generale, sai, sì. Io so, questa è l'Accademia dei Sopravvalutati, ecco, come diceva Woody Allen, un suono comunque film. Sicuramente sì, tipico, sì, chiaro, però diciamo che, boh, non lo so, secondo me sono diventati anche un po' un'icona in un certo modo, anche, sì. Non sopravvalutati, però ci sono stati tanti gruppi che, boh, che hanno fatto uguale e non meglio, e loro sono rimasti più famosi, perché poi succede sempre un po' così nel mainstream, poi, sì, a un certo, sì, punto, sì, no? Sì, uno, sì, assume un ruolo, assume un po', però come dimostrano anche questi Sailcat, appunto, c'erano tanti altri gruppi che facevano quel genere, che comunque avevano qualità. E vabbè, insomma, ora, polemica a parte, questo album che ci hai fatto sentire era del 72, proprio inizio degli anni 70. Quindi, insomma, in questa puntata abbiamo un po' variato, siamo andati, sì, avanti, dai, tipo, giusto così. Abbiamo un po' dalla fine degli anni 60 fino quasi alla fine degli anni '80 con qualche pezzo. Direi che concludiamo. Sì, concludiamo con un vinile che in questo caso non è né mio né tuo, no, però come è avevo trovato già, come nella Batcaverna. Avevo già detto in una precedente puntata di Tonight Alive, è comparso questo, non lo so, questo santo graal in vinile qui dentro la regia di Wombat, era proprio messo in bella mostra in cima a uno scaffale. Sì, il vecchio Wombat si era arrampicato con le sue zampette in cima allo scaffale e l'aveva messo lì apposta per fartelo vedere. Appunto, parlando di album iconici, come si parlava prima di Volunteers dei Jefferson Airplane, questo lo è altrettanto, anche se sicuramente in un altro ambito, nell'ambito jazz, però ecco, mi stava capitando un po' troppe volte sott'occhio questo film. Ce la faceva, era già dall'altra volta che lo voleva mettere, Freddy, era lì, Il Wombat di Basement Records si è arrampicato in cima allo scaffale e ha portato giù questo album epocale, nonché storico, di Miles Davis, Kind of Blue, veramente un pezzo della musica jazz, disco quanto mai epocale, non ci sono parole, non trova le parole. No, non ci sono altre parole per definire un album come questo, un album di rottura dei classici stilemi jazz, uno dei tanti album di rottura di quel genio incredibile che è stato Miles Davis, e in questo Kind of Blue, sì, che è del 59, ed della è fine tra l'altro 50. Leggevo, entrato nella storia del genere jazz, anche se appunto a suo modo, essendo tra i più venduti di sempre, sì, ha avuto un grandissimo successo nonostante sia un album per niente facile, essendo uno dei primi esempi di quello che è definito modal jazz, no? Quello poi è stato etichettato, sì, come modal jazz, che diciamo lo chiamerei full jazz, che poi è stato chiamato full jazz e ha avuto poi l'evoluzione nei due album successivi di Miles Davis. E sicuramente vale la pena ricordare il quintetto stellare di questo album, e sono ovviamente Miles Davis alla tromba, Julian Cannonball Adderley al sassofono alto, niente poco di meno che John Coltrane, niente poco di meno che John Coltrane al sax tenore, Wynn Kelly al piano, un altro pezzettino da niente come Bill Evans al pianoforte, Paul Chambers al basso e James Cobb alla batteria. Non era un quintetto ma era un sestetto. Dream Team. Mamma mia, veramente il Dream Team. E di quest'album vi voglio proprio far sentire il... Tra l'altro nel 92 vinse il Grammy Hall of Fame Awards. Sto zitto perché sennò se comincia a parlare dei Grammy, cosa ci farei con un Grammy? Però per dire che anche è un album riconosciuto molto anche a livello molto popular, diciamo. Poi è diventato, no? Però nasce con altro intento. Anzi sicuramente era già morto Miles nel momento del Grammy. Sì, credo nel 92, Probabilmente avrei un'idea di che cosa ci avrebbe fatto con quel Grammy. Sì, è chiaro, questo per dire che... No, neanche degno probabilmente di reggere le sue carte sulla scrivania. No, anche perché se lo danno a gente, a chi lo danno poi? Appunto. Vabbè. Comunque, polemiche sui premi, come diceva Sarge... Oggi polemica a manetta. Oggi polemica, ma ci sono io, la polemica mi segue ovunque, io la seguo ben volentieri. Vorrei citare Sartre con questa... lasciare questa citazione di Sartre sui premi. I premi non bastano non accettarli, bisogna non meritarli. E su questo direi che vi lascio. Il maestro ci avrebbe forse aggiunto, ci andrebbe vomitato. Così va bene. Grazie per l'aggiunta punk, come al solito. Ti ringrazio per questo spirito. Nel caso del Grammy Award, certo, fosse arrivato. Però, insomma, le parole di Sartre sono profetiche. E questo vale per tutti i premi, ovviamente, in tutte le arti. E i migliori non li prendono mai, e i migliori soprattutto non se li meritano. In quel senso lì, nel senso in cui glieli vogliono dare. Giusto. Sentiamoci bene. Appunto questa So What. Sentiamoci la traccia e salutiamo dopo. Salutiamo dopo, dai, facciamo questa chiosa finale. Modino, a modino. Salutiamo per bene, facciamo bene, le persone educate. Okay. So What, Miles Davis, su Basement Records. Thank you. E come si dice a Firenze, c'ho bordoni. Tanta roba. C'ho veramente i bordoni. Tanta roba. E una questo pelle vabbè, d'oca. Vabbè, vabbè. Da questo pezzo, album metteremo sicuramente altri pezzi. Pezzo dico. Famosissimo, so what. Ringrazio con riff. Il chiunque bombato l'abbia sì, lasciato sì, qui. No, grazie, il mistero di chi è, di chi, se ce lo dite vincerete un premio. Tra vi l'altro, regaleremo... tra parentesi, prima di lasciare un disco così, sarebbe stato più probabile che mi facesse un'autoamputazione e sì, lasciassi oppure... una... E il Dama ci metteva il lucchetto, cioè metteva tipo sai con la teca con il lucchettino e invece vedi con le frecce avvelenate. E invece vedi c'è chi è più così si fida di più di te e l'ha lasciato qui abbandonato, però ha fatto bene perché l'abbiamo trovato noi, quindi vedi la condivisione è sempre positiva. Io e il Dama non la facciamo, non li lasciamo i nostri, abbiamo, però voi e fatela, fatela. Un buon uso, dai. Sì, sì. Quindi da questo album verranno sicuramente tratti altri pezzi. Intanto noi vi salutiamo. E prima di salutarci, però, volevo ricordare ai nostri amici ascoltatori l'appuntamento di domani su Radio Wombat, che sarà sempre, ricordo, in diretta dalla Polveriera Spazio Comune per l'ultimo giorno del Festival della Letteratura Sociale. E soprattutto domani non perdetevi la trasmissione di Rifiglio Domenicale. Il Rifiglino Domenicale inframmezzato alle dirette poi con delle presentazioni dei libri, dei libri faremo... ovviamente, però ci saranno le nostre balde Virgi e Bloody Mary a allietare il nostro pomeriggio, il nostro e speriamo anche il vostro pomeriggio di letteratura sociale, inframmezzandolo con dell'ottima musica classica. Vuoi farci delle anticipazioni, Virgi? Beh sì, domani puntatone speciale perché straordinari. Per te comunque straordinari sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. E domani la fuga del gatto sarà a tema letteratura, quindi riferimenti alla musica classica nei romanzi, nei libri in generale e collegamenti tra la musica classica e le opere letterarie. Quindi, insomma, non perdetevi. Un tema proprio così, sai, la fuga del gatto ci tiene e giusto, fa sempre le cose così, un po' a modino, un po' da pissere come siamo in fondo, sotto l'anima punk c'è sempre la nerditudine che ci spinge, e quindi facciamo questa puntata speciale, sarà ovviamente inframmezzata e coi tempi, quindi non vi posso garantire che sia proprio negli orari soliti o che sia in base alle tempistiche del festival. Quindi dovrebbe partire comunque alle 6 come sempre, però così si svolgerà un po' diluita probabilmente, però a tema, quindi la fuga del gatto in libreria, in biblioteca o comunque tra i libri, accollatevela domani su. Non perdetevela per il ripiglino della domenica pomeriggio su Radio Wombat, sempre sulle nostre frequenze AM ci proviamo, e in streaming e in diretta o in podcast. Quindi partecipate numerosi domani all'ultimo giorno del Festival della Letteratura Sociale, il cui programma potete trovare sul blog della Polveriera e anche immagino sul loro Facebook, ma anche sul nostro, anche su Radio Wombat, sul nostro Radio Wombat c'è il link. E buon proseguimento di serata. E continuiamo come sempre a augurare un buon sabato sera a tutti. Raggiungeteci a Mondeggi a festeggiare. E stasera cumbia, a quanto pare. Sera cumbia è insomma impegnativa, quindi se vedete qualche wombato steso, cumbia fino oltre all'alba. Dai, ciao a tutti. Ciao a tutti, buon sabato sera.